Buonasera, ci siamo? Allora, la scorsa volta che ci siamo visti, che io ho predicato, ci siamo posti la domanda e abbiamo voluto capire secondo quale urgenza vivevamo la nostra quotidianità. Vi ricordate? Siamo andati negli Atti degli Apostoli, abbiamo visto quello che la Chiesa primitiva viveva per capire secondo quale urgenza gli apostoli e i discepoli vivevano la loro vita. Perché volevamo imparare e volevamo prendere da loro per anche noi vivere una vita che è sottosopra. Non solo i giovani che sono upside down, ma anche noi tutti quanti, giusto? E abbiamo individuato, non so quanti di voi si ricordano, 3 urgenze secondo le quali negli Atti degli Apostoli i discepoli vivevano. L'urgenza di pregare, abbiamo visto come loro pregavano. L'urgenza di rinunciare a se stessi e l'urgenza di arrendere ogni cosa. Ora, queste 3 urgenze sono ancora vere e valide per noi questa sera, se vogliamo correre quella corsa che Gesù ci ha messo davanti, se vogliamo prendere e conquistare quei territori nuovi davanti a noi, se vogliamo vivere quella vita straordinaria che Gesù ci ha preparato. Sì? Vi piace? Un titolo che possiamo dare al messaggio di questa sera è hashtag noi corriamo. Hashtag noi corriamo. Così possiamo usarlo sui nostri social, sulle nostre foto, quando serviamo Gesù. Hashtag noi corriamo, perché stiamo servendo Gesù e vogliamo che tutti lo sappiano, che c'è una corsa che tu puoi correre e quella corsa che tu puoi correre, se la corri per Gesù, con Gesù, in Gesù, con Lui, è la corsa migliore che tu possa correre. Vi piace? Quindi siamo un po' tecnologici, va bene, un po' social. Io non so per voi, però ogni volta rimango entusiasta e un po' stupito del fatto di come questi 12 discepoli improvvisamente negli Atti degli Apostoli esplodono. Cioè erano, non so se voi avete, ovviamente l'avete fatto, letto i 4 Vangeli, erano, permettetemi di dire, un gruppo di scocchiati, ok? Non avevano né capo e né coda, cioè non sapevano neanche loro che cosa volevano e sembrava che non avessero capito niente di tutto quello che Gesù gli diceva, no? Quante volte lo leggiamo? Eppure, negli Atti degli Apostoli hanno avuto una trasformazione dalla A alla Z. Hanno vissuto 3 anni con Gesù e non hanno concluso niente. E poi, come Gesù è andato via, si sono ripresi, no? Sembra tipo quei film, non so se voi li vedete, tipo Attacco al Potere, Attacco alla Casa Bianca, no? Che entrano nella Casa Bianca e a un certo punto non c'è più niente da fare, allora il presidente deve alzare, sai, per lanciare i nucleari da tutte le parti e poi a un certo punto fa nella radio, no? A tutte le unità, cambio di programma, piano di emergenza, Gesù è morto. Ripeto, Gesù è morto. Ora, se volete correre e volete andare avanti, dovete darvi da fare, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Sembra quasi così, no? Sembra quasi che hanno aspettato questa cosa, quasi che ci sia un piano B, che loro hanno seguito perché il piano A era andato male. No. La verità è che non c'è mai stato un piano B, perché il piano di salvezza è sempre stato quello che noi leggiamo. E io voglio un po' condensare questo piano di salvezza in 60 secondi e per farlo mi aiuterò con l'ausilio di questa lavagna. Ora, per quanti hanno fatto il corso di consolidamento 2 o lo stanno facendo, tra un po' arriveremo a questo punto. Questa sera lo vediamo un po' brevemente. Se vogliamo saperne di più, iscriviamoci al corso di consolidamento 2, perché parliamo di tantissime cose interessanti che servono alla nostra vita. Abbiamo Dio, piano di salvezza, no? Stiamo capendo come mai questi discepoli, da essere 4 scocchiati, si sono ritrovati a mettere sotto sopra il mondo intero fino ad oggi, no? Abbiamo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. è uno, sono tre, è un po' complicato. Figlio, Padre e Spirito Santo. Sono uno e sono tre. A un certo punto decidono di creare l'uomo e lo creano maschio e femmina. Giusto? Diversi per genere sessuale, pari in dignità, valore e significato. Questo è molto importante, questa è la risposta a tante trasmissioni televisive che guardiamo e che non dovremmo guardare. Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, si dice che passeggiava con l'uomo. Erano proprio, no, a tu per tu, no? Si guardavano, passeggiavano nel giardino, erano contenti, fino a quando un giorno il maschietto e la femminuccia si sono un po' guardati e hanno detto Dio non ha capito bene il fatto, noi sappiamo meglio, e hanno disubbidito. Questo è il peccato. Quando noi diciamo, ok, è meglio come penso io che come pensi tu. Quindi ce la vediamo noi. Cosa è successo? Quando si sono trovati al di là della disubbidienza, sempre il maschietto, sempre la femminuccia, la loro relazione con Dio si è interrotta, perché loro avevano vergogna. Cioè non potevano più passeggiare con Dio, perché improvvisamente non lo avevano ascoltato e quindi avevano un po' che Dio si arrabbiasse e se ne sono andati e non l'hanno più cercato e non l'hanno più visto. Ma Dio da questo momento ha iniziato il suo piano di salvezza. Da questo momento lui sapeva che ti voleva, che voleva che tu oggi stessi seduto qui e che tu oggi potessi parlare con lui. È storia lunga, breve, e possiamo rivedere il messaggio di domenica scorsa perché Noemi lo ha spiegato in maniera eccellente. A un certo punto, dopo tante prove, dopo tanti sacrifici, dopo tanto sangue, dopo tanti affanni, e chi più ne ha più ne metta, si sono ritrovati il Padre, il Figlio e lo Spirito e hanno detto ok, ora è il momento di entrare in azione. E Gesù è venuto. Gesù è venuto su questa terra perché lui doveva riportarci al Padre. E solo lui poteva farlo. Nessuno sforzo fatto in tutto questo arco di millenni è servito, perché il piano era che il Figlio desse la sua vita per noi e ritornasse al Padre. Non è che improvvisamente è andata male la storia e lui l'hanno fatto fuori. Lui doveva ritornare al Padre. Perché doveva ritornare al Padre? Che cosa aveva detto Gesù ai discepoli? Che era meglio per lui ritornare al Padre, perché se lui fosse rimasto con loro, lo Spirito Santo non sarebbe potuto arrivare. E lui ritorna al Padre, si siede alla destra di Dio e lo Spirito Santo scende. E lo leggiamo negli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, dal versetto 8. Lo Spirito Santo scende. E cosa c'è scritto in Atti 1, 8? Che voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Fino a Modugno. Questo era il piano di salvezza ed è sempre stato il piano di salvezza. Non c'è mai stato un piano B per cui allarmarci. Questo ci parla del fatto che non è bastato ai discepoli vivere per 3 anni con Gesù affinché la loro vita potesse essere trasformata. Era necessario che i discepoli ricevessero il riempimento e la trasformazione dello Spirito Santo dentro di loro, perché lo Spirito Santo era capace di trasformarli dal di dentro verso fuori. Questo la dice lunga su di noi, perché non basta per noi aver incontrato Gesù e averlo accettato nel nostro cuore, no? Magari 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, 14 anni fa come nel mio caso, o magari il mese scorso o la settimana scorsa. Accettare Gesù nel nostro cuore è come, diciamo, posizionarci sullo start della gara e quando sentiamo il colpo dell'inizio, pam, diamo quello scatto che ci permette di iniziare a correre. Ma per correre e conquistare i nuovi territori è necessario essere riempiti e rinnovati dello Spirito Santo, perché solo Lui ci trasforma e solo Lui ci può portare dove Gesù ha scelto di portarci. Ora, i discepoli lo sapevano molto bene. Per questo noi, attraverso quella che è la loro storia, possiamo impararlo a nostra volta e correre quella gara ripieni e riempiti di quello Spirito Santo che ci dà potenza di essere Suoi testimoni. Quindi non perdiamo altro tempo e immergiamoci nella lettura degli Atti. Vi piace? Continuiamo dal verso 16 di Atti 5. C'era in atto una vera e propria evangelizzazione, tipo quella che sta per accadere la prossima settimana, no? E leggiamo dal verso 16 che la folla accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Se avessi scritto io questo versetto, avrei scritto Umacid, no? Un po' barese, Umacid. L'evangelizzazione è iniziata, Umacid, no? Se venerdì verremo, poi i commenti saranno Umacid. Non si capiva più niente. Tutti, voi immaginate, tutti gli spiriti immondi andavano, tutti. Noi quando ne vediamo uno ci spaventiamo, tutti, in piazza, il casino proprio. In tutta quest'opera gloriosa, guardate che cosa succede. Il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si alzarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore, nella notte, aprì le porte della prigione e, condottoli fuori, disse: «Andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Essi, udito ciò, entrarono sul far del giorno nel Tempio e insegnavano. Ora viene il bello. Ora il sommo sacerdote e quelli che erano con lui vennero, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani del popolo di Israele e mandarono alla prigione per far condurre davanti a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate e fecero il loro rapporto dicendo: «La prigione l'abbiamo trovata chiusa con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte. Poi abbiamo aperto, ta-da, ma non abbiamo trovato nessuno». Ora, un po' surreale questa situazione. Quando il capitano del Tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi sul conto loro, non sapendo cosa ciò potesse significare. Ma subito sopraggiunse uno che gli disse: immaginate, voi state a dire, questo gruppo di persone che si chiedono: ma che cosa è successo? Ma dove stanno? E poi arriva uno e dice: ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno insegnando al popolo. Allora il capitano con le guardie andò e li condusse via, senza far loro violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. Dopo averli portati via, li presentarono al Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui?» Non aveva neanche il coraggio e la forza di dire Gesù. «Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo». Ancora una volta Gesù non gli esce. Verso 29. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: «Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che se tu non lo vuoi dire, mo te lo dico io come si chiama, che voi uccideste appendendolo al legno e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Noi siamo testimoni di queste cose». E ascoltate bene, è anche dello Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono, a quelli che ubbidiscono a Dio e non agli uomini. Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e si proponevano di ucciderli. Ma un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, alzatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli venissero un momento allontanati. E poi disse loro: «Uomini di Israele, badate bene a quello che state per fare circa questi uomini, poiché prima d'ora sorse Teuda dicendo di essere qualcuno. Presso di lui si raccolsero circa 400 uomini. Egli fu ucciso. E tutti quelli che gli avevano dato ascolto furono dispersi e ridotti a nulla. Dopo di lui sorse Giuda, il Galileo, ai giorni del censimento, e si trascinò dietro tanta gente. Anch'egli perì, e tutti quelli che gli avevano dato ascolto furono dispersi. E ora vi dico, tenetevi lontani da loro e ritiratevi da questi uomini. Perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non potrete distruggerli, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio». Essi furono da lui convinti, lo credo molto bene, e chiamati gli apostoli, li batterono, cioè li creparono di mazzate, no? Come diciamo noi. Ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. E ora viene il punto più alto di quello che stiamo per leggere in questi versi. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio rallegrandosi. I discepoli che erano stati presi a mazzate, di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case, come noi faremo questa settimana attraverso i gruppi familiari, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Di quale corsa stiamo parlando? Noi corriamo. Di quale corsa stiamo parlando? Punto numero uno. Noi corriamo per annunciare tutte le parole di questa vita. Lo abbiamo letto nel verso 20. E questa espressione, tutte le parole di questa vita, che Luca, l'autore degli Atti, usa in questo verso, è la stessa, nel testo originale, è molto simile a quella che lui usa nel verso 26 del capitolo 13, dove scrive che a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Ora, la parola vita e la parola salvezza, in questo caso, corrispondono alla stessa parola. Per questo noi corriamo, per annunciare tutte le parole di questo messaggio di salvezza che ha stravolto la nostra vita. Sì? Ed è curioso come molto spesso noi spendiamo anni, decenni, a capire che cosa Dio vuole fare attraverso di noi, come Lui vuole servirsi di noi. E dopo un po' che stiamo nella pasta, no? Fatemi dire così, inizia la caccia alla chiamata della nostra vita, no? E facciamo gli studi biblici, e facciamo gli studi teologi, e andiamo a vedere che significa chiamata, e andiamo a studiare alla scuola per capire che cos'è la chiamata, e non lo so che cosa facciamo, e ci perdiamo. Ci perdiamo nell'aspettare che una pannocchia ci cada dal cielo e ci dica: questa è la tua chiamata. Oppure spesso accade che aspettiamo che il pastore ci riconosca, no? Riconosca la nostra chiamata, riconosca il nostro dono e ci dia la possibilità di esercitarlo, perché noi vogliamo servire Dio e quindi la colpa è la sua, se io non l'ho ancora capito, perché lui non mi dà la possibilità. Di quale corsa stiamo parlando? Quando i discepoli hanno iniziato a correre, sapevano solo una cosa. Sapevano che lo Spirito Santo era sceso su di loro e loro avevano ricevuto potenza per testimoniare di questa salvezza. Questa era la loro chiamata. Questa è la nostra chiamata. annunciare tutte le parole di questa vita e di questa salvezza che abbiamo ricevuto alle persone intorno a noi. Molto semplice. Semplice a volte come aggiornare il tuo stato di Facebook in maniera tale che parli di questo e non di tutte le frustrazioni di questo mondo di cui noi a volte partecipiamo. Non deve cadere una pannocchia perché tu capisca qual è la tua chiamata. Devi solo aprire la tua bocca e testimoniare della salvezza che Gesù ha dato a te e vuole dare agli altri. Così hanno fatto i discepoli. A volte noi leggiamo la storia dalla fine, invece è importante leggerla dall'inizio, perché strada facendo e correndo e testimoniando di Gesù hanno scoperto i loro doni, hanno scoperto e hanno specificato la loro chiamata, che nonostante si espletasse in modi e forme diverse a seconda dei doni e delle capacità che avevano, era la stessa ed era partita dallo stesso punto. Più chiaro, se continuiamo a leggere nel capitolo 6, leggiamo proprio di questo, di come vengono costituiti i diaconi e leggiamo di come inizia questo processo di affidamento di incarichi e definizione di ruoli e responsabilità all'interno della Chiesa, che non corrisponde all'inizio della loro corsa, ma ad una parte del tragitto da prendere durante la corsa. Sottile differenza. Cioè, se andiamo a leggere il verso 5 di Atti 6, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmene, Nicola, non è che stavano seduti ad aspettare che i discepoli improvvisamente dicessero: beh, questa è la vostra chiamata, alzatevi e servite. No, se leggiamo dal verso 3 del capitolo 6, vediamo che loro già stavano vivendo la chiamata, perché erano degli uomini che testimoniavano e delle donne che testimoniavano di quel messaggio di salvezza che avevano ricevuto e che volevano dare. Ed è per questo, perché lo facevano, perché erano ripieni e perché i discepoli e gli apostoli l'hanno riconosciuto, che gli hanno affidato un incarico o un ruolo o una responsabilità o una chiamata. Non era un servire alle mense fine a se stesso. Non è un predicare la parola dal microfono perché mi piace. Non è un evangelizzare le persone intorno a me perché sono bravo. E come dico Gesù, cadono per terra svenute perché lo Spirito li riempie. Non è insegnare la parola di Dio perché sai tante belle cose che è importante che tu possa esprimere e dire a tutte le persone che devono ascoltarle. Non è fare il pastore perché devono fare come dici tu, no? E quindi sei tu che devi guidare, tu non puoi essere guidato, devi guidare. Non è stare qui sul palco e portarci alla presenza di Dio attraverso i canti perché abbiamo fatto lo zecchino d'oro e siamo bravi. Ma è annunciare a questa città, alla nostra famiglia, ai nostri colleghi, ai nostri amici, alla nazione intera, tutte le parole di questa vita e di questa salvezza che noi abbiamo in Gesù. Questa è la nostra chiamata. Questa è la corsa di cui noi stiamo parlando. Punto numero 2. Noi corriamo per ubbidire a Dio anziché gli uomini. Lo abbiamo letto al versetto 29. Ma Pietro, e qui è la seconda volta che loro si trovano. Già nel capitolo 4, al versetto 19 di Atti, si trovano davanti a questa domanda, a questo dubbio. Ma cosa dobbiamo fare? Si trovano davanti alla necessità di dover fare una scelta. Chi dobbiamo ubbidire? Di quale corsa stiamo parlando? Dobbiamo considerare il comandamento di Dio di testimoniare della sua salvezza attraverso di Gesù al popolo? Oppure dobbiamo ubbidire a quello che gli altri uomini ci dicono come noi e quindi fare di conseguenza quello che loro ci chiedono? Il prezzo dell'essere un cristiano è che uno sia preparato ad ubbidire a Dio piuttosto agli uomini e pagarne il costo che ne consegue da questa scelta. È il prezzo dell'essere cristiano quello che uno sia preparato ad ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini e pagarne il costo che ne consegue. Perché noi sappiamo che la nostra vita ha un valore che noi abbiamo e che noi abbiamo preso qui. Perché tu lo sai che ubbidire a Dio ed essere ripieno di Spirito Santo è quello che è più a valore per te. Tu lo sai che questo è il tuo posto. Perché ubbidire a Dio significa essere qui. E tu lo sai che ubbidire agli uomini significa essere qui. E tu lo sai che non è il tuo posto. Tu lo sai che non è il tuo posto, quindi puoi pagare quel prezzo, puoi pagare quel costo perché lo Spirito Santo ti ha riempito e continua a riempirti. E tu sai che la tua vita è piena. E tu sai che quando sei debole, allora sei forte, perché lo hai vissuto, perché eri qui e ti sei trovato debole e hai gridato. E Gesù ti ha fatto vedere che lui è forte quando tu sei debole. E tu lo sai che forse è debolissimo ubbidire a Dio, perché è più facile ubbidire agli uomini. Ma tu lo sai che anche se sei debole, Gesù è forte. Noi corriamo nella nostra famiglia per ubbidire a Dio anziché agli uomini. Ecco perché ascoltiamo nostro marito. Ecco perché ascoltiamo nostra moglie. Ecco perché ubbidiamo ai nostri genitori e li onoriamo. Perché noi vogliamo ubbidire a Dio. E possiamo farlo. Possiamo fare tutto questo. Abbiamo lo Spirito Santo. Noi corriamo nelle nostre amicizie, nelle nostre relazioni, sul nostro posto di lavoro per ubbidire a Dio anziché agli uomini. Per questo perdoniamo. Per questo pensiamo bene dell'altro. Per questo non critichiamo, ma diciamo bene quando una parola viene detta male. Per questo non mentiamo. Per questo non invidiamo. Ma siamo contenti se gli altri stanno avendo delle vittorie. Per questo lavoriamo onestamente, senza trarre in inganno nessuno, perché noi scegliamo di ubbidire a Dio e possiamo fare tutto questo. Abbiamo lo Spirito Santo. Noi corriamo nel costruire la Chiesa servendola per ubbidire a Dio anziché agli uomini. Per questo ci incoraggiamo l'uno con l'altro e non ci demoliamo con le nostre parole quando incontriamo i nostri fratelli e le nostre sorelle o quando serviamo la domenica. Per questo siamo felici di servire ogni domenica come me e lo facciamo con gioia perché vogliamo obbedire a Dio. Per questo guidiamo ripieni di pace, gioia, amore, benevolenza, mansuetudine, autocontrollo, e chi più ne ha più ne metta, fede, amore, il nostro gruppo familiare. Perché noi ubbidiamo a Dio e siamo gioiosi di poterlo fare. Per questo guidiamo il nostro gruppo di lavoro, che possa essere qualsiasi area tu sia coinvolto, con gioia, con amore, con parole positive. Perché noi vogliamo ubbidire a Dio. Per questo non ci sentiamo mai arrivati, ma rimaniamo umili nel nostro servire la Chiesa, perché noi vogliamo obbedire a Dio e noi possiamo fare tutto questo. Abbiamo lo Spirito Santo. Questa è la corsa di cui stiamo parlando. Punto numero 3. Noi corriamo una corsa inarrestabile e indistruttibile. E l'abbiamo letto nel verso 38 e 39. Ora vi dico, tenetevi lontani da loro e ritiratevi da questi uomini, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non potrete distruggerli se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Perfino un fariseo, un dottore della legge, uno che voleva male i discepoli, che li voleva bloccare e fermare, non poteva che riconoscere che combattere contro di loro poteva significare combattere contro Dio. Se l'opera dei discepoli, quello che Gamaliele sta dicendo qui è che se l'opera dei discepoli e la nascita del movimento dei cristiani avesse avuto un'origine umana, non avrebbe concluso un bel niente. Alla fine della storia si sarebbero dispersi come tutti gli altri delle storie precedenti. E il loro disubbidire agli uomini, e in questo caso al Sinedrio, non avrebbe portato a nulla. Questo è quello che lui sta dicendo. Ma se l'opera dei discepoli e la nascita del cristianesimo avesse avuto la sua origine in Dio, allora avrebbe avuto la forza di superare qualsiasi opposizione umana. Questa è la tua corsa. Anzi, attenzione, aggiunge Gamaliele, noi stessi farisei e sacerdoti del Sinedrio ci possiamo ritrovare a combattere contro Dio, contro lo stesso Dio che noi diciamo di voler servire. Stiamo attenti, lasciamoli stare. Noi corriamo una corsa che non è iniziata dagli uomini. Per questo è importante ubbidire a Dio e non agli uomini. Perché noi corriamo una corsa che da eternità passate a eternità future Dio aveva preparato per noi. I nostri genitori neanche pensavano che noi dovevamo arrivare e Dio sapeva già che noi dovevamo stare con Lui a correre questa corsa. Noi corriamo una corsa che non è nostra, ma siamo parte di un piano di salvezza così grande, così che non lo puoi neanche pensare, così più grande di quello che noi pensiamo che è la nostra chiamata, così più grande di quello che sono le nostre difficoltà, così più grande di quello che sono le nostre mancanze, così più grande di quello che abbiamo e di quello che non abbiamo. È così grande questa corsa che è inarrestabile. È inarrestabile. E se noi ci togliamo dall'equazione andrà avanti lo stesso, perché è un privilegio per noi esserne parte. Perché la salvezza che Gesù ha portato qui è una salvezza indistruttibile. Pensate che neanche la morte è riuscita a fermarla. Per questo l'Apostolo Paolo, quando scrive a noi romani, fatemi dire così, italiani, dice, se Dio è per voi, chi sarà contro di voi? Forse colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio e lo ha dato per noi, non ci donerà tutte le cose con lui. Sta parlando a me e sta parlando a te. Di quale corsa stiamo parlando? Noi corriamo una corsa che è inarrestabile e indistruttibile. Noi corriamo per ubbidire a Dio anziché agli uomini. Noi corriamo per annunciare tutte le parole di questa vita e di questa salvezza. Quarto punto, ed ultimo punto. Noi corriamo una corsa degna del nome di Gesù. Noi corriamo una corsa degna del nome di Gesù. E lo abbiamo letto anche questo. Verso 41 e 42. Dopo essere stati caricati di mazzate bene bene, vorrei sottolinearcelo, perché è di questo che noi stiamo parlando. E noi quando leggiamo li batterono, sembra, sai, il battipanni, no? Li caricarono di mazzate bene bene proprio, come si dice a Bari. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù, e ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Non solo sono stati puniti e hanno ricevuto una punizione, ma non si sono scoraggiati nel continuare ad annunciare al popolo tutte le parole di questa vita. Anzi, di più, si sono riempiti di gioia. Tu immagina, no? Sono stati ingiuriati, sono stati minacciati, sono stati picchiati. Cioè, non so a voi, però a me, se uno mi dà mazzate, non è che io sprizzo sentimenti da tutti i pori di gioia. Woohoo! Yeah! Continua, vai, vai! No, non credo che fosse la reazione a pelle di quello che loro stavano vivendo, ma nonostante tutto, la loro reazione è stata di gioia perché hanno realizzato che erano stati considerati da Dio degni di condividere la loro parte di sofferenze affinché il nome di Gesù venisse annunziato. Hanno avuto gioia perché hanno realizzato, ve lo ridico, che erano stati considerati da Dio degni di condividere la loro parte di sofferenze affinché il nome di Gesù fosse annunciato. Perché il nome di Gesù è degno. È così degno che non avevano il coraggio di pronunciarlo quelli che non lo volevano vedere. Il nome di Gesù è degno di qualsiasi prezzo da pagare e di qualsiasi sfida da affrontare per te. E molto spesso noi corriamo la nostra corsa e pretendiamo che Gesù si allinei a noi. Non so se a voi capita mai, no? E lui deve risolvere tutti i nostri problemi, lui deve risolvere tutte le nostre difficoltà, e se non lo fa come, dove, quando, perché, lo pensiamo noi. Non lo so, ciao! Forse me ne vado a casa. A volte è come se abbiamo personalizzato Gesù così tanto che ci siamo dimenticati che siamo noi. Siamo noi che dobbiamo spendere la nostra vita per dare gloria a Lui e a prendere parte a questo piano di salvezza che è così grande, che è così eterno, piuttosto che Lui a fare quello che noi vogliamo e a quello che noi diciamo e a fare quello che noi pensiamo della nostra vita. E quindi ci fermiamo e preghiamo affinché Gesù ci possa consolare. E leggiamo quella che è la Bibbia, perché abbiamo bisogno di trovare delle risposte. E siamo così presi da tutto questo che ci dimentichiamo il vero motivo per il quale siamo vivi. Ora, tutto questo non è accaduto perché Gesù fosse quella monetina che noi mettiamo nella slot machine, tiriamo la cloche, jackpot. La mia vita è abbondante, straordinaria e fantastica. No. Tutto questo è successo perché noi eravamo disperatamente persi, morti e separati da Dio. Eravamo disperati, eravamo qua e non sapevamo che cosa doveva accadere nella nostra vita e Gesù ha fatto quello che solo Lui poteva fare. Il Figlio ha fatto solo quello che Lui poteva fare ed è venuto per vincere, per conquistare, per strappare la nostra vita da quella morte e dare uno scopo più alto a noi. Uno scopo che fosse inglobato in un piano eterno di salvezza, coinvolgendoci, dicendo: ehi, voglio fare con te. In questi versi che abbiamo letto adesso, leggiamo un esempio concreto della gioia nella sofferenza, che dovrebbe essere il segno distintivo di noi cristiani sotto la persecuzione per aver testimoniato di Gesù. Non riguardo ai nostri problemi personali. A volte ci confondiamo. E non che i discepoli non avessero problemi personali, tutti abbiamo i problemi. Ma non era questo il punto. Non era questo quello che Luca voleva scrivere. Non era questo quello che noi leggiamo. La loro vita era concentrata in una corsa che portava un nome per il quale tutto il resto passava in secondo piano. Questo era il punto. Gesù Cristo, principe, salvatore, che ci permette di ravvedere e di perdonare i nostri peccati, E noi ne siamo testimoni perché lo Spirito Santo ci aiuta e ci permette di ricevere e di ascoltare e di ubbidire. E nessuna azione intimidatoria ha potuto in qualche modo far diminuire l'ardore e la passione dei discepoli nel testimoniare che Gesù era il Messia, il Cristo. Nessuna azione intimidatoria li ha bloccati. Questa è la nostra corsa. Questa è la mia corsa e questa è la tua corsa. Io vorrei che ci alzassimo in piedi. E invito la band a prepararsi. Questa settimana continueremo a correre insieme attraverso i gruppi familiari a casa. Ed io prego che lo Spirito Santo possa riempirci per annunciare tutte le parole di questa vita. Io prego che noi facciamo di questa occasione che abbiamo un'occasione dove noi ci riempiamo dello Spirito Santo per annunciare tutte le parole di questa vita e che questa possa diventare la nostra abitudine, che questa possa diventare la nostra corsa ogni giorno della nostra vita. Ubbidire a Dio, percorrere la sua corsa, perché il suo nome è degno. Vi piace? Volete farlo? Io non so come siamo arrivati stasera qui. So che il messaggio non finisce qui, ma ce lo portiamo e lo digeriamo e lo viviamo. Però so che possiamo pregare. So che se siamo qui, lo Spirito Santo ci ha parlato e abbiamo bisogno di andare da Lui per essere riempiti in questo momento, perché sappiamo che forse ci è difficile ubbidire a Dio in quella situazione, perché sappiamo che forse dobbiamo riallinearci a quella che è la sua corsa e non fare in modo che Lui voglia correre la nostra corsa. Tu sai per quale motivo adesso hai bisogno di essere riempito dello Spirito Santo e io voglio pregare con te per questo. E per qualsiasi motivo tu vuoi che lo Spirito Santo ti riempia, alza le tue mani a Lui in segno di arresa. Non lo fai per me, non lo fai per la band, lo fai perché ti stai arrendendo e stai dichiarando a Gesù e allo Spirito Santo che hai bisogno di Lui. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché tu sei re, sei principe, sei salvatore, sei sovrano e noi abbiamo bisogno della tua sovranità nella nostra vita. E tu vedi le nostre mani alzate e tu sai che per ricevere la tua sovranità abbiamo bisogno di arrenderci a te. Ed è questo quello che vogliamo fare stasera, perché vogliamo dirti che ci fidiamo di te e la nostra fiducia di te ci basta. Non abbiamo bisogno di nient'altro e vogliamo affidarci a te in quelle cose dove ci è difficile obbedire a te, in quelle cose dove non vogliamo pagare quel prezzo che sappiamo di dover pagare. Vogliamo affidarci a te e alla tua sovranità sulla nostra vita e ti lodiamo, Gesù.